Dicono che l'acqua ha una sua memoria, come il silicio e i nastri magnetici e la superficie dei compact disc. Una goccia salata che cade in un fiume gli consegna per sempre il ricordo del sale, un messaggio indelebile scritto negli atomi e sulle onde. Se fai sciogliere un fiocco di neve, unico e irripetibile, quando lo congeli di nuovo torna uguale a se stesso. E il giapponese Masaru Emoto sostiene addirittura che i suoni, la voce umana e le onde cerebrali lasciano nell'acqua una traccia che poi si manifesta coi cristalli di ghiaccio. In Val di Setta, frazione di Lagaro, nel comune di Castiglione, se voi altri mi fate attenzione, d'una disgrazia vi vorrò raccontare. Forse l'acqua che abbiamo nel corpo ricorda meglio di noi le canzoni che da neonati ci accompagnavano nel sonno. Forse la pioggia e i torrenti impregnano coi loro archivi anche la terra, l'erba, gli alberi. Fu un giovane astronomo americano, Andrew Ellicott Douglas, a scoprire che gli anelli nel tronco di una sequoia non rivelano soltanto l'età della pianta, ma raccontano il clima degli anni che ha vissuto. La distanza tra un cerchio e l'altro dipende dalla temperatura e dalla siccità. Se vi annoio, voi mi scuserete, ma spiegar meglio di così non si può, come già tutti voi lo sapete, che la stampa di già ne parlò. Sulle Alpi, nel fusto dei larici, si trovano ancora le cicatrici causate dall'eruzione del vulcano Katmai sulle isole Aleutine, in Alaska, avvenuta il 6 giugno 1912, quando tonnellate di cenere invasero il cielo e velarono il sole per molte settimane. Cerchi irregolari e decentrati sono la firma sghemba di frane, vento, erosioni, che fanno crescere gli alberi storti e ricurvi. Alluvioni e incendi lasciano sgorbi nella grafia vorticosa che incide il durame e segni evidenti nell'aspetto della pianta. Come i cerchi che si allargano sulla superficie di una pozza, dove ciascuno passa al successivo la spinta del sasso, così ogni anello del tronco influenza quelli che lo seguono. E anche sulla corteccia spuntano i segni di antichi cataclismi, il cui ricordo è ormai custodito nel cuore della pianta. Poi arriva il vento, passa la mano tra i rami, e le memorie degli alberi diventano suoni per giungere all'orecchio di uomini lontani, incapaci di comprenderli. E fu proprio il 14 ottobre che in domenica venne quel dì. Invece di stare a casa in riposo, fu destino d'andare a morire. Se tu sapessi ascoltarli, Gerolamo, potresti sentire un'orchestra di faggi suonare le ballate della grande galleria, che a quanto dicono passa proprio sotto di loro, dentro la montagna che hai di fronte, a 500 metri di profondità. 80 cerchi fa, l'acqua delle sorgive ha registrato le vibrazioni della roccia, causate dall'esplodere delle cariche e delle voci dei minatori. Le sorgive hanno alimentato i ruscelli e l'umidità dei ruscelli ha nutrito gli alberi. Terra e radici hanno succhiato la memoria dell'acqua e con l'aggiunta di sali minerali l'hanno trasformata in linfa. I vasi dell'oxilema hanno aspirato la linfa verso l'alto e il legno ha assorbito nutrimenti e ricordi, per poi tradurli nella sua lingua di nodi, rami e biforcazioni che il vento ora legge e trasmette come la puntina di un vecchio giradischi sui solchi del vinile. Quando fummo noi in galleria, come al solito si stava facendo, ad un tratto uno scoppio tremendo, la montagna la fece tremare. Se la capissi, Gerolamo, questa musica d'acqua e di legno, di terra e di vento, se tu la sapessi ascoltare, distingueresti il suono dei rami incurvati da un'esplosione di gas, il fruscio delle fenditure prodotte sulla corteccia dallo scoppio delle mine, il fischio leggero dei pensieri di chi è morto là sotto. Il fumo dei corpi bruciati ha infiltrato le rocce e la terra. Scorie grigie, simili a cenere, hanno inquinato la linfa dei faggi. Un tumore grosso come un melone è fiorito sulla corteccia 80 cerchi fa e ancora la deforma e produce il suono che non riesci a sentire, confuso con tutti gli altri, il sibilo acuto degli ustionati. Ed è questo loro mescolarsi che rende così difficile decifrare le dendrofonie raccontate dal vento. I suoni si sovrappongono, non seguono l'ordine del tempo, come i cerchi dentro al fusto e i solchi sul vinile. Se anche tu riconoscessi il timbro grave da controfagotto prodotto dal vento su una piaga del tronco causata dal calore di un incendio sotterraneo, non potresti lo stesso datare quell'incendio, dire se è scoppiato la settimana scorsa o 100 anni fa. Per farlo dovresti segare l'albero o prelevarne un campione con un succhiello di Pressler e da quello interpretare gli anelli. Imbalorditi e al buio si resta, stupefatti dal grande spavento e le grida dell'avanzamento, anche ai sassi facevan pietà. Se tu imparassi a riconoscere il sibilo dei corpi bruciati o il suono inconfondibile che fanno i pensieri di un moribondo, le onde cerebrali di un essere umano che sta per morire, condotte attraverso la roccia, ricevute dalle radici, trasformate in irregolarità della corteccia e ora suonate dal vento, se tu sapessi ascoltarli, sentiresti un coro di 85 voci, come in un'unica strage. E se tu avessi l'orecchio davvero allenato, come quello di un direttore d'orchestra, dal timbro di ciascuna potresti ricavare altri dettagli. L'età della persona e il modo scelto dal destino per farla morire. Solo con un orecchio così allenato ti accorgeresti che alcuni di quei suoni, e per la precisione 65, hanno un volume più alto, mentre gli altri 20 ce l'hanno più basso. E magari capiresti che questa differenza non è casuale, perché i primi 65 sono quelli che morirono nella galleria quando ancora non era completa e le volte non erano tutte murate, così che la roccia poteva ricevere meglio le vibrazioni, mentre in seguito la calotta in calcestruzzo ha fatto da isolante e i 20 morti successivi hanno una voce più attutita, come se parlassero dietro un panno di feltro. Quelli di dietro che avevan sentito non sapevan che strada pigliar, poi si son fatti di un cuore assoluto e i compagni son corsi a aiutar. Tra i primi 65 sapresti riconoscere quelli che sono incappati in una mina gravida, cioè una carica inesplosa, perché durante la volata si contano sempre i colpi per essere certi che tutte le mine piazzate facciano il loro dovere, ma è pur sempre un conto fatto a orecchio in mezzo al boato. E subito bisogna riprendere a lavorare. Non c'è tempo di aspettare che la polvere vada giù. L'assistente dice di darsi da fare col picco per rompere i macigni più grossi e caricarli sui vagoni. 5 all'ora se ne devono fare. E con tutta questa fretta e la polvere che toglie il fiato e la vista, capita che una mina è rimasta gravida. Non la si è contata bene. E quando il disgraziato va a spaccare il masso con il piccone, dentro c'è la mina e boom! Il disgraziato salta per aria e magari insieme a lui anche qualcun altro che gli stava vicino, perché nello strozzo lo spazio è poco e se salta una mina ce n'è davvero per tutti. Quell'aiuto era tanto prezioso per quella gente così disperata che chiamava mamma con voce angosciata mentre il fuoco continuava a bruciare. Sapresti riconoscere quelli rimasti schiacciati sotto un'armatura che non ha tenuto, perché soprattutto l'argilla spinge e si deforma, non ne vuole sapere di farsi scavare e le capriate, le centine in legno di pino si spaccano, rompono teste e schiene e lo stesso fanno i bollimenti, le frane di sassi che vengono giù dopo la volata, quando ancora non ci sono i marciavanti, cioè le tavole per ripararsi la testa, perché l'unica protezione dei minatori è il cappello. E il casco lo porta giusto l'ingegnere quando viene a fare i controlli. Sapresti riconoscere il fochista che ha spinto il carrello col bruciagas, uno straccio infuocato messo in cima a un palo per bruciare il metano. Ha spinto il carrello, ma il metano era già lì, più indietro e più in basso del previsto, mescolato con l'aria, pronto a scoppiargli addosso e a portarselo via. Riconosceresti il fochino che è andato sotto la calotta per accendere le micce, e anche lì c'era il gas ad aspettarlo. Le lampade Davi lo avevano segnalato, era suonato l'allarme, c'eravamo fatti indietro di 200 passi e l'elettricista aveva fatto il suo lavoro: appendere all'armatura i sacchetti di polvere pirica, ficcarci dentro i cavi e poi dargli fuoco a distanza col generatore di corrente. Eppure, si vede che qualcosa non aveva funzionato e che nemmeno i ventilatori erano riusciti a portarselo via tutto, quel gas. E appena il fochino ha acceso le micce, boom, il gas era lì e si è portato via pure lui, come quegli altri 7 del 1923. Se tu avessi un carotaggio fatto col succhiello di Pressler, lo potresti sapere che era quell'anno lì, e il segno grosso di 7 morti lo vedresti meglio che sugli altri anelli. Appena giunti al pronto soccorso c'erano già tutti gli amici e i parenti, fra urla, pianti e lamenti. Sempre mamma sentivo chiamare. Sapresti distinguere quelli fulminati dai macchinari elettrici zuppi d'acqua e quelli annegati dietro la saracinesca che veniva giù quando il cunicolo rischiava di allagarsi, e se non eri svelto a uscire fuori potevi rimanere chiuso dall'altra parte con il getto d'acqua che usciva dalla roccia come una fucilata. Domandate ai feriti guariti, meglio di loro nessuno lo può dire. 7 morti e 20 feriti. La disgrazia ebbe fine così. E anche se avessi l'orecchio finissimo, Gerolamo, non potresti sentire lo stesso i morti per la pussiera dei decenni successivi. Morti magari in ospedale a Bologna e nelle loro case sparse per le montagne. Loro non ci sono dentro ai faggi sopra la galleria. È la terra della galleria che sta dentro di loro, infilata sottile negli alveoli dei polmoni. Alcuni hanno dovuto tirarli fuori dalle tombe per dimostrare che la polvere ce l'avevano dappertutto, nei bronchi e nelle ossa, e che un fazzoletto davanti alla bocca durante lo smarino in mezzo alle volate, un fazzoletto non basta per evitare la silicosi. Non ci saranno più medici, nemmeno professori, che fanno guarire il mal dei minatori. Non ci saranno più medici, nemmeno medicine, per far guarire il male delle mine. In questo coro, in quest'unica strage che accomuna tutti, insieme alle piogge dello scorso autunno, al sole di ieri e a migliaia di treni che sono passati nel frattempo, tu ora dovresti riconoscere i suoni più lievi, quelli attutiti dal calcestruzzo delle volte. I quattro che scortavano il convoglio fatto saltare là sotto dai partigiani per bloccare la direttissima. E poi, 10 cerchi più avanti, il ferroviere che coltivava un geranio sottoterra nella stazione delle precedenze, alla luce delle lampade, e solo 2 volte all'anno riusciva a fargli prendere il sole grazie ai raggi che trovavano l'inclinazione giusta per infilarsi nel pozzo di Cadilandino. Su e giù per quel pozzo si andava con un carrello lungo un binario ripido. Walter Tassoni lo guidava e ne rimase schiacciato. Dopo la sua morte lo tolsero e quelli che prendevano il treno alla stazione delle precedenze per andare a lavorare a Firenze, a Prato, a Bologna, dovettero farsi 2 volte al giorno 1800 gradini e venir fuori sudati fradici in mezzo all'inverno e alle correnti d'aria, finché la stazione delle precedenze non venne proibita ai passeggeri e la gente della zona dovette andare a prendere il treno 13 chilometri più giù, a Spianamento, la stazione di San Benedetto Val di Sambro. Ma nel conto ne mancano ancora 15, 15 suoni funebri, tumori sulla corteccia dei faggi suonati dal vento. Federica dagli occhi di mare, che vede stazioni veloci passare, suona a Roma una vecchia zampogna, poi viene Firenze, si va per Bologna. Se avessi saputo riconoscere i primi 70 suoni, Gerolamo, adesso, per analogia, ti aspetteresti altri 15 omicidi bianchi, morti sul lavoro, caduti nella battaglia contro la galleria, come si cade in guerra, senza responsabili. La guerra è guerra e bisogna combatterla. Si muore, non c'è niente di strano. Ma se tu avessi l'orecchio fino e potessi capire il sesso e l'età di quei morti, ti chiederesti cosa c'entrano con gli omicidi bianchi un bambino di 4 anni, una bambina di 9, un'altra di 12. Qualcuno, a fare il boccia in galleria, ci è andato anche a 12 anni, è vero, ma erano maschi, mai bambine. Federica, dagli occhi di mare, su quella montagna ti han fatto fermare. Hanno rotto le ali al gabbiano e tu non hai visto la neve a Milano. Se avessi il campione fatto col succhiello di Pressler, vedresti che gli ultimi 15 morti sono tutti sullo stesso anello, 15 cicatrici sovrapposte che formano un unico, grosso sgorbio, a 30 cerchi di distanza da Walter Tassoni e a 61 dai 7 minatori uccisi dal Grisù. Faresti il conto degli anni e ti verrebbe fuori il 1984, 50° anniversario della ferrovia direttissima, Big in Japan degli Alphaville, strage del Rapido 904. Allora capiresti cosa c'entra quel bambino di 4 anni che non c'entrava niente e una bambina di 9 che pensava al Natale e una di 12 che non aveva mai visto la neve. Capiresti che gli ultimi 15 non sono omicidi bianchi, sono omicidi neri e che in un'unica galleria e nei tronchi dei faggi 500 metri sopra si sono fuse assieme le vittime di due stragi tipiche italiane. Il lavoro e il terrore. Ma tu non ce l'hai, l'orecchio fino, e nemmeno il succhiello di Pressler. E queste dendrostorie non le senti, sono solo vento che soffia tra i rami e mette freddo addosso. Così ti volti e torni indietro, verso la chiesa di Santa Maria della Neve, a montare la tenda nel chiarore dei lampioni.